Sarà per caso o sarà per calcolo, ma è un dato di fatto che dopo lunghi mesi in cui il problema delle macchie sui vestiti ha messo in pericolo la sicurezza nazionale di un grande paese, un centro studi militare britannico, forse per evitare che qualcosa del genere potesse accadere anche alla regina, ha inventato un vestito antimacchia. Per la disperazione dei tintori e per la gioia degli sporcaccioni, sembra infatti che applicando un particolare gas a qualsiasi tipo di stoffa, questa poi risulti repellente, ripulsiva o respingente nei confronti di che sia, che più tardi possa venire categorizzato come sporco o e molecolarizzato come macchia. La realtà a questo proposito è drammaticamente in ritardo. Perché? Perché nel 1951, nella superba interpretazione di Alec Guinness, uscì il film di Alexander McKendrick, Lo scandalo del vestito bianco, dove si narrava di un chimico che, avendo inventato un tessuto indistruttibile e immacchiabile, si trova a dover fare i conti con l'ira funesta degli industriali tessili. Era una satira feroce del sistema capitalistico che, come ormai ben sappiamo a nostre spese, si associa al progresso soltanto fino a quando questo risulta funzionale al profitto e che glorifica la libera impresa soltanto fino a quando non disturba i monopoli. Al sistema odierno, invece, non può più far paura alcunché. C'è un prezzo e gloria per tutto, macchie comprese. Estendendosi fino ad identificarsi nel vivente medesimo, e il capitalismo sembra capace di assorbire qualsiasi novità e produce da sé perfino una corta critica di se stesso. Nella versione italiana dello scandalo del vestito bianco, Guinness interpreta la parte del chimico Henry Holland, che tuttavia nella versione originale inglese si chiamava Sidney Stratton. Il curioso mutamento non è privo di alcuni risvolti ideologici. Ne ho compreso le ragioni dopo qualche ricerca e dopo aver scartato le ipotesi più fantasiose. Nello stesso 1951 era uscito un film di Charles Crichton dove il medesimo Alec Guinness interpretava la parte di un impiegato di banca incaricato di sorvegliare il trasporto di lingotti d'oro. Inutile dire che dopo 20 anni di fedele servizio l'impiegato decide di fare il colpo della sua vita, ruba l'oro e lo fonde in tante torri Eiffel. Ed è inutile dire che ovviamente che assecondando il dettato morale dell'epoca le cose poi gli vadano malissimo. Bene, è in questo film che Guinness interpreta un personaggio di nome Holland. Tanto è vero che la versione italiana fu presentata proprio con il titolo di L'incredibile avventura di Mr. Holland. Allora, l'estensione del nome al personaggio del secondo film è una mera e irrispettosa operazione mercantile, il tentativo di vendere una merce sfruttando con un battesimo piratesco il successo di un'altra merce, categorizzando come stesso qualcosa che etica vorrebbe considerare diverso. L'etica di chi compra, ben inteso, vorrebbe considerare diverso, che non è la stessa dell'etica di chi vende, che peraltro ne è rigorosamente sprovvisto, almeno fino al momento in cui non deve vendere anche quella.